Azione. Radio Azione. Controinformazione, letture, provocazioni, musica. Controinformazione, letture, provocazioni, musica. Radioazione. Radioazione. Controinformazione, letture, provocazioni, musica. Radioazione.org. Radioazione. È una mattinata come tante altre sul Vesuvio. I Refractarios sono impegnati in vari lavori per la sopravvivenza. E ancora una volta sono all'oscuro di ciò che sta avvenendo nella metropoli di Nazero 13. Non sanno dei cannibali all'area nord e tantomeno di quelli all'ospedale in centro. Ma soprattutto non sanno dell'evasione di una parte di sequestrati, tra i quali il loro compagno Valéry, da Carcelia con la decapitazione del noto direttore torturatore Carl Lerit. Intanto i Tarspok, quelli delle torri di guardia in superficie, hanno già messo sotto controllo tutti i tombini di Carcelia. Qualche buon infame cittadino ha allettato gli uomini topo sulla fuga dei suoi sequestrati. Il generale Navig è in piena crisi. È accaduto tutto in poche ore. La bomba al quartier generale dei Tarspok, i cannibali nell'area nord, le telefonate di aiuto che arrivano dal personale dell'ospedale che sono barricati dentro una sala operatoria, ora anche Carcelia. Navig non si era mai interessato più di tanto di Carcelia perché lo riteneva un carcere sicuro. Nessuno, secondo lui, sarebbe mai riuscito ad evadere dalle fogne. Troppo controllo, troppa tecnologia. Da lì si poteva uscire solo se Lerit lo avesse desiderato. Non c'erano pene da scontare in anni. Il topo gigante decideva se era il caso di liberare qualcuno e questo accadeva molto raramente perché i sequestrati, specialmente quelli più deboli, erano il suo divertimento per eccellenza. Solo lui poteva liberare qualcuno e proprio lui, a causa del suo carattere impulsivo e violento, ha fatto sì che ora una sessantina di sequestrati abbiano potuto vedere di nuovo la luce del sole e vendicarsi degli anni trascorsi rinchiusi in nicchie grandi giusto per farci entrare un letto e la tazza d'eccesso. Navig, insieme ad altre alte autorità Tarspok, è nel suo ufficio della torre di guardia M. Sono già 3 ore che sono chiusi per discutere su un piano da attuare, ma gli uomini per affrontare tutto allo stesso momento sono pochi. Vengono fatte rientrare le squadre dei Tarspok che da giorni sono in cerca di Refractarios. Per ora il vero pericolo sono i cannibali, perché oltre a quelli dell'area nord si sono aggiunti quelli dell'ospedale, che è proprio lì, a poche centinaia di metri, dalla torre di M. Non si sa se ce ne sono altri in giro per la metropoli e quanti intossicati ancora lo diventeranno. Di sicuro, con circa 1000 uomini a disposizione tra Tarspok e Insect, non si riesce ad affrontare la situazione. Per il momento gli Insect sono tenuti ancora fermi nelle cellette di riproduzione, dei veri e propri alveari a grandezza umana che si trovano sotto le 2 torri di guardia. Molto raramente sono stati utilizzati perché vengono considerati come una squadra speciale. Come i Tarspok, gli uomini topo, gli Insect sono una razza creata nei laboratori, ma come le tante e diverse altre che popolano la Terra sono nate in principio in modo naturale. Negli anni in cui avvennero i primi esperimenti di clonazione venne scelto un campione di 100 sbirri tra uomini e donne divisi ugualmente, a cui venne fatto un vaccino con i geni di topi e vespe. Fu spacciato come vaccino contro la leptospirosi, dato che questa malattia era molto diffusa a causa della quantità di topi che popolavano i quartieri più popolari e del porto. Le strade, stracolma di spazzatura, erano supermercati gratuiti a cielo aperto per i ratti. La spazzatura non veniva ritirata dalle strade non perché non vi fosse un luogo dove smaltirla, ma perché le autorità di tutta la nazione facevano i loro affari con le mafie in quelle zone. Le ditte, quelle che si potrebbero definire regolari, venivano distrutte un po' per volta dalle autorità e dai mafiosi, in modo che ad interessarsi del problema rifiuti fossero solo le ditte dei capoclan mafiosi o di qualche politico. Oltre ai topi, ovviamente, la spazzatura richiamava api, vespe, blatte e insetti di ogni genere. Ma quello che fu spacciato come vaccino contro i morsi di topi o punture di insetti non era altro che un esperimento di modifica di geni. Le cavie vennero separate in 2 luoghi diversi di una stessa struttura di un'industria chimica. I vaccinati con i geni dei topi da una parte e gli insetti da un'altra, facendoli interagire tra di loro poche ore al giorno. L'intento era quello di creare un esercito in laboratorio, e se l'esperimento fosse riuscito, le cavie dovevano vivere armoniosamente tra loro nonostante la diversa natura. Gli insetti erano uomini e donne normali per il 70% del corpo fisico, a differirli dagli altri umani erano i peli, non troppo lunghi, di colore giallo e nero, che avvolgevano i loro arti inferiori e superiori, il mento e le orecchie. Le sopracciglia funzionavano come delle vere e proprie antenne degli insetti. Come i Tarspok, gli insetti potevano trasformarsi in vespe giganti, ma non prima che gli fosse ordinato. Ora nella metropoli c'era bisogno anche della loro presenza. Le autorità Tarspok decisero di mandare gli insect su tutti i tetti dei palazzi del centro storico della NA 013. Da lì dovevano tenere la situazione sotto controllo come delle vere e proprie telecamere e possibilmente non intervenire ma avvisare le torri. Fu deciso per tenerli sui tetti perché non erano proprio delle vespe normali, la loro grandezza era quanto quella di un nano, quindi non sarebbero passate inosservate tra la popolazione. Inoltre una buona dose di un potente insetticida poteva nuocere alla loro vita. Mentre le autorità prendevano le prime decisioni, un'auto di Tarspok andata in perlustrazione all'ospedale rientra allertando tutta la torre. I cannibali sono usciti dall'ospedale non prima di aver sbranato tutto il personale ospedaliero. I pazienti sono stati lasciati vivi e stanno uscendo dall'ospedale insieme ai cannibali, i quali hanno un atteggiamento tutt'altro che ostile nei loro confronti. Anzi, gli stessi cannibali aiutano i pazienti più gravi ad uscire dalla struttura e ad adagiarli sui letti in una sala, in un'ala dell'ospedale dove non vengono a contatto con il sangue dei medici. Quelli che all'inizio sembravano degli zombie non uccidono e non divorano indiscriminatamente ed il loro atteggiamento all'ospedale lo sta dimostrando. Loro sono intossicati nel sangue ma anche nella rabbia. Finora hanno ammazzato tra ospedale e Area Nord solamente Tarspok, medici e Media Cops. Tutto sembra avere una logica. Gli intossicati sono rabbiosi contro coloro che hanno costruito e protetto il termovalorizzatore esploso. I medici, attraverso esami ed analisi manovrate dalle autorità, hanno dato via libera alla costruzione dicendo che non ci fosse pericolo per la popolazione. I Media Cops, da sciacalli e servi dei Tarspok, hanno sempre coperto e nascosto ogni notizia riguardante i veleni che fuoriuscivano dalla centrale. L'orda di cannibali, a cui si aggiungono i primi cittadini normali, stanno avanzando insieme per le strade di Nazero 13 come fosse un corteo. Più avanzano e più aumenta il numero di rabbiosi e rivoltosi che si uniscono. Il sole è tiepido. La nuvola è tossica è rimasta là sopra scolpita sul cielo di Nazero 13. L'aria piena di smog come al solito, ma un'aria molto più pesante sta per essere respirata dalle autorità della metropoli. Sono loro ed i palazzi istituzionali l'obiettivo di quelli che sono oramai più di 2000 rivoltosi, ed alcuni anche assetati di sangue, che avanzano a testa alta senza la paura che li ha sempre frenato. Le prime banche iniziano ad essere illuminate dal fuoco della rivolta. I primi palazzi governativi vengono assaliti dai cannibali. Le prime teste di autorità politiche e governative iniziano a volare giù dalle finestre, acclamate dalla grande massa rivoltosa che ormai si sta uniformando. La popolazione non ha paura dei cannibali, anzi li considera come una vera e propria guida sul percorso della vendetta. Uno sciame di insect volano ad avvisare le due torri M ed G, ed i primi Tarspok a bordo di blindati vengono inviati a poche centinaia di metri dal corteo. lessons. What of our mothers? What is this, our lessons? What of our mothers? What is this, our lessons? What of our mothers? What is this, our lessons? What of our mothers? Radiazione lunedì 8 luglio. Allora, abbiamo iniziato con una caduta di connessione, si va avanti, veramente abbiamo iniziato con la lettura di racconto Nazero 13 e a seguire il brano Insect, tutte e due, il brano e il racconto usciranno ad ottobre, sono editi da sottoscritto, usciranno come edizioni in radiazione ovviamente. E andranno benefit per i compagni detenuti. Ora ricordiamo che oggi la diretta d'azione, siccome è lunedì, non riguarda solo la controinformazione ma anche la lettura, quindi continuiamo con le letture, continuiamo, stiamo andando a finire perché siamo quasi a metà luglio e adesso penso che faremo ancora tutto il mese prima di andare in vacanza, non è vero, in vacanza per la radio, evitando l'aria viziata della cameretta e il calore asfissiante. Stiamo leggendo I Sabotatori di Edward Abbey, lo stiamo portando a termine, infatti avremmo già voluto finire le dirette del lunedì, però ci tocca andare avanti ancora un po' per evitare 10 ore di diretta all'ultima. Ricordiamo gli indirizzi utili per radiazione, radiazione@autistici.org per chi vuole mandare scritti, comunicati, dati di iniziativa, testi per iniziative, oppure da poter pubblicare sul sito di radiazione, oppure anche CD, libri, opuscoli, manifesti e quant'altro si voglia divulgare gratuitamente attraverso sempre radiazione e la pagina download. Il sito di radiazione è radiazione.org, dove potete oltre a scaricare tutto il materiale che ho appena detto, leggere soprattutto la controinformazione aggiornata quotidianamente, che a differenza dalla radio che va due volte a settimana, il sito viene aggiornato tutti i giorni o quasi tutti i giorni. Quando c'è si mette, quando c'è qualcosa che ne vale la pena si mette, se non ne vale la pena non si mette, non pubblichiamo, non si pubblica tutto, proprio tutto tutto no. Evitiamo di fare come tanti altri siti e blog, per riempire, giusto per riempire le pagine, non ci interessa riempire le pagine, ci interessa portare avanti un messaggio, portare avanti una convinzione, portare avanti un percorso. Quindi il percorso di radiazione non è quello di pubblicare la qualunque. La radio trasmette su radiazione, trasmette sul server anarchia.net, messa a disposizione da compagno del sito di Anarchist Library, che ringraziamo sempre. Sia radiazione, sia la radio sia il sito stanno sul server, quindi ringraziamo sempre per averci risolto un bel po' di beghe il compagno di Anarchist Library. Allora, ora brano e poi dopo si torna qui e si inizia questa diretta d'azione con la lettura di I Sabotatori, Sabotatori di Edward Abbey. Place to be. The percussion thumping, hand claps a precise voice on the microphone is recognized. The ice, hardcore rhyme, rock a mic, attacking the joint. understand the commands of the Brinks. The Brinks. End of discussion. Evil E can motivate the butt of a Russian. Tracks laid seamless like a pole on a fence to keep the wax beats out and let the funk commence intense. Kick patterns on a rate and the pace while my beat controls your actions like a gun in your face. Hardcore rhyme rhythm that a b-boy pace. Ear piercing high, this epic bass all can drive and derive to assault the crowd with the meters up high so it comes out loud. Allora ci riproviamo, non una ma bensì due interruzioni già intervenute nella diretta odierna di martedì 8 luglio 2014 su Radio Azione. Ci hanno interrotto, si è interrotta la connessione durante la lettura dei contatti, durante l'ascolto di You Don't Quit, un pezzo che abbiamo mandato all'introduzione della lettura dei Sabotatori di Edward Abbey. Proviamo a continuare, se stavolta ci va bene. E siamo arrivati, sono un po' di puntate che evitiamo di fare il cosiddetto riassunto delle puntate precedenti, perché prima di cominciare la diretta mettiamo a disposizione una rilettura, un riascolto della lettura precedente. Anche se oggi sono stati un bel po' di problemi e continuano. Comunque, giusto per contestualizzare, stiamo seguendo le peripezie di una batteria di 4 sabotatori negli Stati Uniti di metà degli anni 70, nel centro degli Stati Uniti, che stanno attaccando, che hanno attaccato e attaccheranno le strutture della civiltà industriale, chi costruisce autostrade, miniere, chi disbosca. E insomma, seguiamo adesso le vicende di A Piedi la Caccia. Sì, Triboli, armi medievali dell'età della fede. Il dottor Sarvis cerca di spiegare a George Idak di che cosa sta parlando, poi però si arrende e torna dietro. La sua testa scompare, le spalle, il busto, il largo sedere, le gambe, i suoi scarponi. Lo sentono rovistare nel camper mentre il furgone dondola, traballa, rumba, sferraglia sulla strada sterrata tenendo la coda di Smith sulla Jeep. Un inciso. Stanno scappando. Sono durante una corsa in un furgone con alle spalle la squadra di recupero e soccorso, una posse moderna di un gruppo di benpensanti paramilitari. Quindi ci troviamo in una fuga. Un'occhiata nello specchietto retrovisore. Hydak vede che adesso sulla pista c'è la squadra di ricerca e soccorso al gran completo, 8 paia di fari luminosi a meno di 1 chilometro. Pesta forte sull'acceleratore, ma deve sollevare il piede quasi subito per evitare di andare a cozzare contro la Jeep. Forse dovrei dargli comunque una spintarella. Egli si avvicina, appoggia il muso del furgone al culo della Jeep, accelera vincendo la resistenza. Nella Jeep, Smith percepisce quella spinta idrostatica nella parte posteriore come se la Jeep fosse lanciata in overdrive, sul punto di allargare le ali e decollare. La testa lustra di Doc riappare attraverso la tendina che copre la botola. Serve della luce! E quindi gli passano una torcia elettrica, scompare. Qualunque cosa siano questi benedetti triboli, farai meglio a trovarli subito, dice Hydak. Guardando i fasci intermittenti delle luci nello specchietto. Non può sentirti, dice Bonnie. Tieni quel riflettore sulla prima macchina del gruppo che ci sta seguendo, dice Jody. Acceca quei bastardi. È quello che sto facendo, ma guadagna strada ugualmente. Hydak passa la sua pistola alla ragazza. Se arrivano troppo vicino, usala. Lei la prende. Comunque non voglio uccidere nessuno, non credo che ne sarei capace. Si rigira la pistola tra le mani sbirciando dentro la canna. Ma è carica. Certo che è carica. Che cazzo serve una pistola se non è carica? Che stai facendo? No, non farlo, non guardare nella canna. Cristo, Gesù, Dio. Mira le loro luci, sparagli nelle ruote. La Jeep e il furgone che gli è incollato alle costole sbandano nelle curve, dentro e fuori canali e buche sopra rocce, attraverso materiali alluvionali, dentro un banco di sabbia trasportato dal vento. I paraurti cozzano, sbattono, si agganciano e si incastrano. Hydak si rende improvvisamente conto con profondo disgusto che i due veicoli sono ora accoppiati, una carne sola. Il che pone fine al problema di un'eventuale separazione al Dirty Devil Canyon. I loro inseguitori sono sempre più vicini. Attraverso la nebbia di polvere, su per la lunga salita che procede alla discesa nella gola del Colorado, Bonnie punta la pistola fuori dal suo finestrino, mirando forse alle montagne, e cerca di tirare il grilletto, ma non succede nulla. Non riesce a tirarlo. Ma che cosa ha questa pistola? Protesta. Non funziona. La ritira dentro, lasciando che la pesante canna si pieghi verso l'inguine di Hydak. Funziona perfettamente, per l'amor del cielo, punta da un'altra parte. Non riesco a tirare il grilletto, vedi? Non è automatica, non è automatica, santo Dio. Prima devi tirare indietro il cane con il pollice. Cane! Quale cane? Dammi quella cosa. Hydak lo fa scattare indietro. Qui. Prendi qui. Passa sopra di me. Guida tu. In quell'istante la strada sterrata finisce e inizia un tratto asfaltato. Si stanno avvicinando al ponte Colorado. Lo sferraiamento, lo sbattere e il fracasso dell'attrezzatura pigiata si interrompono di colpo. Basta polvere, basta clamore meccanico e nessuna speranza di fuga. A tutto gas, ordina Hydak. D'accordo, aspetta! Hydak nota che lo sportellone posteriore del camper è aperto e che Doc, una massa tuberosa scura contro le luci della squadra, sta scaraventando fuori manciate di qualcosa che somiglia a sassolini un po' fuori misura. Sembra un tizio impegnato a dare da mangiare ai piccioni in parco. Chiude lo sportellone e nuota verso la cabina sopra un ammasso caotico di pentolame e pagaie, burro d'arachidi e detonatori e infine la testa nella cabina. Dal punto di vista di Hydak, il dottore appare come una testa senza corpo, pelata, sudata, barbuta, con denti e occhiali che brillano, un'apparizione resa tollerabile soltanto dalla familiarità. Credo di averli fermati. Guardano. Le luci sono ancora dietro e sempre più vicine. Beh, non sembra proprio, dice Bonnie. Un momento, un po' di pazienza. Doc si gira a guardare attraverso il finestrino posteriore scheggiato dal proiettile. Adesso, nel giro di pochi secondi, diventa invece chiaro che la squadra sta perdendo terreno. I loro fari si inclinano da una parte girando in modo strano, di fianco verso il margine della carreggiata. C'è un groviglio confuso di luci, bianche, rosse, ambrate, che si mischiano nel centro della strada. È chiaro che gli inseguitori si sono fermati, apparentemente si riuniscono per un conciliabolo. Haydack e Smith su pick-up e jeep con i paraurti incastrati rombano insieme come gemelli siamesi sull'asfalto tra i grandi archi del ponte centrale. Non si fermano ma continuano per un altro chilometro e mezzo fino alla strada secondaria che porta a nord, una pista fuoristrada che arriva fino al maze e tutto ciò che vi è oltre. Abbandonato l'asfalto, poco dopo Haydack ferma il camion, stringendo Smith a fare altrettanto. Spengono le luci e scendono per una pausa di riposo e riflessione, guardando indietro l'assembramento di fari oltre il ponte di mezzo, dove l'intera squadra, per una ragione o per l'altra, si è bloccata. «Beh, non possono mica aver finito la benzina tutti nello stesso istante», dice Smith, e si volta sospettoso verso Haydack. «Non avrai mica sparato a quei ragazzi, George?» «No, sgonfi», dice il dottore. «Ce li hanno tutti sgonfi». «Ma che cosa?» «I pneumatici!» Doc scarta un Marsh Wheeling, un sigaro nuovo di zecca, guardando con soddisfazione il marasma che ha provocato. «Vuoi dire che hanno bucato tutti nello stesso istante?» «Esattamente!» E si gira il sigaro nella bocca, morde la punta, sputa, lo accende. «Forse non tutti». «E come mai?» «Triboli!» Doc si infila una mano in tasca ed estrae un oggetto grande come una pallina da golf con quattro punte sporgenti. Stella di mare, Acaster Plancy, la passa Smith. È uno strumento antico, vecchio come la guerra, un'arma anticavalleria. Si lasciava sul terreno, così. Noterai che comunque si fermi, una punta è sempre rivolta verso l'alto. Queste bucheranno qualsiasi pneumatico, rivestito, cinturato, quello che ti pare. E dove l'hai presi questi affari? Doc sorride. Li ho fatti ordinare da un amico diabolico. «Lance di bambù avvelenate», commenta Haydack. «Sganciamo questi paraurti del cazzo, uomini, e smammiamo!» Bonnie e il dottore saltano sul paraurti della jeep mentre Smith e Haydack sollevano l'altro. I veicoli vengono liberati da quell'innaturale connubio. Cambio di autisti. Haydack riprende il controllo della sua jeep. «Smith!» Torna sul suo camion, con grande sollievo del tour service che sarà con lui. Bonnie va con Haydack. «Quel ragazzo a volte mi innervosisce», confida Doc a Smith. «George è un po' pazzo», concorda Smith. «Questo non si discute, tutto considerato mi fa piacere sapere che è dalla nostra parte e non con il vescovo. Comunque, se vuoi guardare questa faccenda da un punto di vista strettamente pratico, puoi anche pensare che un uomo farebbe meglio a stare lontano da entrambi il più possibile». «Meglio che allacci la cintura, Doc, la strada che ci aspetta è parecchio sconnessa. Un eccesso piuttosto disperato di ostentazione». «Esattamente, Doc, che sta aspettando?» Smith si volta indietro verso il ponte. Due coppie di fari si sono staccati dal gruppo immobile e si stanno avvicinando. «Parti, George!» dice dolcemente Smith, avviando il suo motore in un rombo pesante. Haydack mette in marcia la jeep. A fari spenti, seguendo la pallida traccia della pista rischiarata dalla luce delle stelle, i due veicoli procedono verso nord, lenti e prudenti nel buio, lungo una strada che fa sembrare quella sterrata di prima un nastro di seta. «Funzionerà?» chiede Doc. «Perché non accendiamo le luci e andiamo più forte?» «Forse funzionerà, forse no», risponde Seldom. «Il vecchio Bishop Love si fermerà e seguirà le nostre tracce fino a dove abbiamo girato e ci sarà di nuovo addosso nel giro di 5 minuti, ma su questa strada comunque non si può andare più veloci di come stiamo andando». «Ma quale strada? Io non vedo nessuna strada». «Beh, se è per questo neanche io, Doc, ma so che c'è». «Sei già stato qui altre volte?» «Ma solo un paio, 3 settimane fa, ricorderai, io e George abbiamo portato qua il nostro amico Bishop Love quando George gli ha fatto rotolare addosso un masso e ha appiattito la blazer del vescovo come una frittella. Da quello che sento, Love è ancora infiammato come un brufolo per quello che è successo». «Quel vescovo non ha il minimo senso dell'umorismo. È carogna come un cane da cortile quando passi davanti a casa sua. Attenti!» Nuvole di polvere si alzano nella luce delle stelle mentre Haydack e la jeep finiscono in una brutta buca sulla strada. Smith è costretto a schiacciare il freno per un istante, proiettando un segnale rosso nel buio. Haydack si ferma, vuole parlare. «Rotto qualcosa?» chiede Smith. «Non credo. Hai visto se ci sono ancora luci alle nostre spalle?» «Non ancora. Probabilmente Lave è passato dal porticciolo a prendere un po' di pezze per riparare gli pneumatici dei suoi ragazzi. Ma sa che abbiamo preso questa strada, è stupido, ma non come noi. Beh, pensavi di prendere la vecchia strada minerale dell'altra volta? No, a meno che tu non voglia trascorrere metà della notte a togliere i massi che ostruiscono il passaggio, inoltre volete nascondervi nel MAS. Giusto, ok, ma come facciamo a sapere che il vescovo non ha fatto arrivare una squadra di militari ed aiutanti dello sceriffo che stanno venendo giù per il Flint Trail ed aspettarci al varco? O un paio di zelanti ranger scesi a Land's End? Non lo sappiamo, George, ma è l'unica possibilità che abbiamo. Se sta venendo qualcuno dal Park Service, dovrà venire giù dal Green River o da Hanksville, così li batteremo sul tempo arrivando al raccordo per il MAS comodamente. A meno che i figli di buona donna non abbiano preso i loro dannati elicotteri. Inoltre, se conosco bene quello sporco bastardo, il vecchio Lave è troppo testato per chiamare aiuto, ci vuole dare la caccia da solo. Che ci siamo fermati a fare? Dov'è la borsa termica? Ma perché? Perché ho bisogno di una birra, di due birre. Quanto è lontano il MAS? Circa 24 km in linea d'aria, una settantina di strada. Vedo luci, dice Bonnie. E anch'io, tesoro. Direi che è un invito indiretto a rimetterci in marcia. Sometimes clears the day. Allora, dopo la prima lettura per quanto riguarda i sabotatori di Edward Abbey, ora si passa alla controinformazione. Abbiamo appena ascoltato un brano dei Pink Tarns Blue con il titolo A Moment Sometimes. Ora controinformazione con un aggiornamento sul processo a Gianluca e Adriano, dove sono state chieste le condanne da parte dell'accusa. Allora, il 4 luglio presso il Tribunale di Roma si è tenuta la seconda udienza del processo contro Gianluca e Adriano. Nonostante fosse a porte chiuse, alcuni e alcune sole tali sono entrati in aula approfittando del momentaneo vuoto di controllo, dovuto a tutte le formalità cerimoniose che caratterizzano la fase iniziale delle udienze. Hanno urlato con forza la loro rabbia contro un procedimento che si svolge nella totale assenza degli imputati. Dopo qualche minuto, però, sono stati spintonati fuori dall'aula dei carabinieri presenti mentre il giudice sembrava ignorare quanto stesse accadendo. Ricordiamo che il giudice D'Alessandro, accogliendo la richiesta del PM, ha stabilito che il procedimento si svolga per gli imputati in videoconferenza. Sia Gianluca che Adriano hanno deciso di non partecipare alla farsa vessatoria, rifiutandosi di apparire attraverso uno schermo. Durante la sua requisitoria, il PM Minisci, personaggio tristemente noto ai compagni e alle compagne in quanto anche pubblico ministero del procedimento per i fatti del 15 ottobre, nel tentativo di rafforzare le pretestose imputazioni di 270 e 270 bis, avrebbe citato anche alcuni fatti avvenuti fuori Italia. Crediamo allo scopo di paventare così una fantomatica associazione sovversiva internazionale. Ha concluso i suoi vaneggiamenti con la richiesta di condanna per una pena di 8 anni per Adriano e 9 per Gianluca. L'udienza è stata rinviata al 18 luglio per la discussione della difesa e probabilmente per la sentenza. Ribadiamo la nostra solidarietà ai compagni imputati e la necessità di non abbassare il nostro livello di attenzione sullo strumento della videoconferenza, che dal codice di procedura penale è prevista solo come misura eccezionale, ma che viene già regolarmente applicata, per esempio dal Tribunale di Sorveglianza di Roma. Non lasciamo che passi nel silenzio l'ennesimo tentativo di isolare ancora di più le compagne e i compagni dai loro contesti affettivi e di lotta. Questo è il testo che hanno messo in rete i compagni di Evasione, e che noi ripubblichiamo e vigiliamo per diffonderlo. Allora, per quanto riguarda la videoconferenza, lo dicevano già i compagni, non riguarda più, da quanto si è capito, solo alcune situazioni con misura eccezionale, perché anche il processo ad Alfredo e Nicola è andato in videoconferenza. Anche là i due compagni hanno deciso di non partecipare, quindi sta diventando una pratica non solo in Italia ma anche in Cile, e mi sa che molto probabilmente, se ho capito bene, anche in Grecia. Quindi uno sforzo in più da parte della magistratura per tenere i compagni isolati e non per non dargli modo, quella volta al mese quando ci sono le udienze, di vedere i propri compagni, i propri familiari. Questa era per quanto riguarda la prima notizia di controinformazione per oggi. Ora ci ascoltiamo un brano di Kenny Arcana, Je viens d'incendi, non lo so, è in francese. Ah no, qua non ti vengo in soccorso. Allora, Kenny Arcana, e poi dopo si ripassa alla lettura dei sabotatori di Edward Abbey. Avoir la paix, je peux pas taper, tu voulais qu'on la ferme, moi j'ai choisi de rapper. J'oublie pas,

Beh, sarebbe stato meglio averne ancora, dice Smith e comincia a canticchiare una melodia. Sentendo la nenia, il dottore pensò: questa è pazzia, un delirio, un sogno malato. Datti un pizzicotto, Doc. Ok. Sì, sono io. Sarvis, dottore in medicina, laureato all'American College of Surgeons, membro noto, anche se non apprezzato da tutti, della comunità medico-scientifica, residente tollerato, anche se a stento, del distretto 22 di Duck City, New Mexico. Vedovo in lutto con due figli cresciuti, lanciati nella carriera, libertini e dissoluti, tutti e due come il loro padre, El Viejo Verde. Quando sarò vecchio e calvo e bolso e impotente, mi amerai ancora, mia puledrina? Ma questo lo avevamo già chiaramente stabilito. Oh, sbaglio. Doc fissa il retro coperto di polvere della Jeep di Hydak che avanza, il ragazzo e la ragazza nascosti dai bagagli ammonticchiati sotto l'incerata. Guarda di lato, fuori dal suo finestrino, e vede macchie clandestine di crisotamnus e coleoghine passando lentamente in mezzo ad una confusa distesa di pietre, terra e sabbia. Guarda indietro e vede due coppie di fari, uno perfettamente di fronte all'altro, che brillano debolmente come lucciole attraverso la polvere galleggiante, lontane ma in movimento, senza perdere né guadagnare terreno. Ma che succede? Si domanda Doc. Di che cosa ho paura? Se il peggio che può succedere a un uomo è morire, non c'è nulla da temere. Ma la morte non è il peggio. E in ogni caso nessun rimorso. Si appisola, si sveglia, si appisola e si sveglia di nuovo. Proseguono sferragliando chilometro dopo chilometro, sopra sassi e solchi. L'avversario segue ad una distanza discreta, lontano ma di rado fuori dal campo visivo. Smith, studiando le luci ostinate nello specchietto retrovisore, dice: sai una cosa, Doc? Non credo che quelli abbiano intenzione di catturarci adesso. Credo invece che stiano solo cercando di non perderci di vista. Forse sanno che qualcuno ci verrà incontro al Flint Trail, il che, mi senti, significa che non mi sorprenderebbe trovare qualcuno che ci aspetta più avanti verso l'alba. Avevi detto che avremmo potuto arrivare prima di loro al Maze Turnoff. È vero, non ti sento, ma quelli che pensano che noi siamo diretti a Maz. Perché no? Perché il Maz è un vicolo cieco, Doc. La fine della strada, il grande salto nel vuoto. Nessuno va mai al Maz. Beh, allora è per questo che ci stiamo andando noi? Ah, Doc, finalmente l'hai capito. E perché nessuno va mai fino al Maz? Beh, perché là non ci sono benzina, strade, gente, cibo, e la maggior parte del tempo manca l'acqua e non c'è modo di venirne via. Ecco perché, come ti ho detto, è un vicolo cieco, perlomeno nella società dei consumi. Delizioso, pensò il dottore. Ed è questo il posto dove stiamo andando a nasconderci per i prossimi 10 anni. Ma noi abbiamo un po' di cibarie là, proseguì Smith. Ne abbiamo nascoste una parte a Lizard Rock e una parte a Francis Spring. Se riusciamo a prenderle prima che la squadra prenda noi, andrà tutto bene. Nell'immediato potremmo avere dei problemi per l'acqua. Tuttavia, se stanotte o domani piove, il mio naso mi dice di sì, e allora saremo a posto per qualche giorno, sempre che la squadra non ci stia troppo addosso. Non male, pensò Doc. Malissimo. Siamo quattro buffoni su un ramo morto. Temo che questa notte non finirà mai. Temo che finirà. Guarda ad est, alla gibbosa luna calante che sale nel cielo, quasi obliterata dalle nuvole. Non c'è molto da sperare. Vede una lepre attraversare rapida la strada attraverso le colonne polverose dei raggi di luce. Smith scarta bruscamente per evitarla. La lepre. Doc si rende conto che è da diversi chilometri che non vede bestiame o cavalli. Come mai? Chiede. Perché non c'è acqua, replica Smith. Non c'è acqua. Ma c'è tutto il fiume Colorado là, da qualche parte sulla nostra destra. Sarà non più di qualche chilometro a est. Doc, il fiume è là dove dici tu, ma per arrivarci dovresti essere una farfalla o un condor. A meno che tu non te la senta di fare un bel tuffo a rondini di 600 metri dal bordo. Ah, capisco. Non c'è modo di scendere all'acqua. No, è difficile, Doc. Certo, conosco una vecchia pista che scende da Lizard Rock dello Spanish Badam, ma non ne ho mai trovate altre. Smith controlla di nuovo nello specchietto retrovisore. Ci stanno ancora sulla coda. Quelli sono tipi che non mollano facilmente. Inizio a pensare che dovremmo nascondere qui i veicoli e proseguire a piedi. Doc si gira sul suo sedile, sbirciando attraverso la botola e il finestrino frantumato dal proiettile sul fondo del camper, un chilometro, forse otto, alle loro spalle. Calcolare di notte la distanza è un'impresa impossibile. Arrivano un paio di fari che salgono e scendono lungo la strada rocciosa. Sta per voltarsi di nuovo quando vede una lingua di fuoco verde sollevarsi sempre più alta, raggiungere l'apogeo e ritornare sulla terra tirandosi dietro un'onda di tizzoni fosforescenti che si spengono lentamente. L'hai vista? L'ho vista, Doc. Stanno facendo delle segnalazioni a qualcun altro, è meglio che ci guardiamo intorno. Smith fa lampeggiare i suoi di fari. Hydak si ferma spegnendo le luci, ma non il motore. Smith fa lo stesso, scendono tutti e quattro. Che succede? Dice Abzug. Stanno lanciando ancora segnali luminosi. Ma dove cazzo siamo comunque? Dice Hydak. All'aria stanca e depressa, gli occhi arrossati, le mani tremanti. Ho bisogno di una birra, anche io la gola secca, dice Smith guardando avanti verso le pareti nere del plateau e poi indietro i loro inseguitori. Per il momento le luci si sono fermate. Danne una anche a me. George guarda in cielo proteggendosi gli occhi con le mani verso nord, nord-est, est. Eccolo. Lascia perdere la birra, George, non abbiamo tempo. Che hai visto? Beh, immagino di aver visto un aereo. Tutti seguono la linea del suo braccio e del suo dito tesi. Una minuscola luce rossa lampeggia nella notte viola, passando attraverso il manico dell'orsa maggiore. È ancora troppo lontana perché lo si possa sentire. Vola nel cielo nord-orientale. È un elicottero, dice Hydak, lo capisco dalle vibrazioni. Nel giro di un minuto sarà da questa parte, lo sentirai. E allora che facciamo? Io mi faccio una birra, dice Hydak aprendo lo sportellone posteriore del camper. Tira fuori una confezione da 6 tiepida dalla borsa termica. Il ghiaccio mancherà per giorni. Qualcun altro? Una seconda luce di segnalazione Barry si alza in cielo nella parte in cui si trova il loro nemico ad una distanza indeterminata e raggiunge il suo zenith. Esita e precipita in un'elegante parabola di fiamma verde. Tutti osservano la scena momentaneamente paralizzati. Ma perché usano i razzi? Perché non comunicano via radio? Ah, non lo so, darling. Forse hanno le frequenze diverse. Salta la linguetta, una fontana di schlitz calda innaffia il camion imitando il razzo e scende in spruzzi sottili su Doc, Bonnie e Smith. Hydak interrompe il getto di birra serrando il buco con la sua bocca e il rumore di una felice suzione. Beh, dice Bonnie, facciamo qualcosa. Qualunque cosa. Mi sembra, attacca il dottore. Le pali rotanti fendono l'aria. Vieni da questa parte, compagni. È meglio se ce ne andiamo a piedi, dice Smith. Cerca tastoni con entrambe le braccia tra i bagagli sparsi nel retro del suo camper e tira fuori pacchi e pacchetti, birre e zaini, tutti caricati con cibari e attrezzature. Qualcuno ci aveva pensato, Abzug, almeno una cosa questa volta. Era stata fatta bene. Scaramente fuori le borracce, 5 o 6 in gran parte piene, trova uno scarponcino da escursionista e lo passa a Bonnie. Questo è per te, tesoro, ho due piedi, qui c'è l'altro. Hydak fissa con aria stupida Bonnie che si siede per infilarsi sui scarponcini. Doc che lotta con il suo zaino da 30 kg, Smith che chiude lo sportellone del camper. Hydak tiene in mano la lattina di birra schiumante, le altre 5 tenute insieme da un colletto di plastica con l'altra mano. Che fare? Grande domanda, come si chiedeva Lenin. Per funzionare deve mettere giù le birre, ma per funzionare deve bere le birre. Un bel dilemma. Si porta una lattina aperta alla bocca e si scolla fino all'ultima goccia. Cerca di piazzare le 5 rimaste sopra il suo zaino, non ci riesce, non c'è spazio. Allora le lega all'esterno. Dobbiamo nascondere questi veicoli, dice Smith. Lo so anch'io, ma dove? Hydak muove vagamente il braccio in direzione del golfo nero del Karak Canyon. Laggiù. Smith lancia un'occhiata su all'elicottero che adesso sta tracciando un grande cerchio nel cielo qualche minuto verso nord alla caccia di qualcuno. Non so se abbiamo il tempo, George, ma dobbiamo, c'è dentro tutta la nostra merda, pistole, dinamite, esplosivi, burro d'arachidi, tutta roba di cui abbiamo bisogno. Smith guarda ancora l'elicottero che volteggia disegnando cerchi, scendendo verso la strada alcuni chilometri a nord, e poi le luci che si stanno avvicinando alla direzione opposta, ora a meno di 3-4 chilometri. Agguato, in preparazione, la tenaglia si stringe. Beh, portiamoli il più possibile lontano dalla strada, non da quella parte, su per la roccia levigata, così non lasciamo tracce. Magari troviamo il letto di un torrente in secca dentro cui infilarci. Ah, ok, andiamo. Aidak strizza una lattina di birra nella mano. Tu e Bonnie aspettate qui, dice a Bonnie. Stiamo tutti insieme, dice Bonnie. To the chasm gaping we, mirrors multi-reflecting this between Spunk's day sheet and Odra's whim. Hammer eye flick shudder within, assist me to walk away in sin. Where is the string that Theseus led? Find me out this labyrinth land. Or taste a tart and eat my lunch. Unfold my slender, thin and lean in this solemn place of filled wedding dreams. A black matted lace of pregnant cows as life maps out onto my brow. The card is loaded, index turned into my filing cabinet. Hammer spreads by. Thank you. E questi erano Bauhaus con il brano In the Flat Field. Ora si ripassa la controinformazione leggendo un testo di un'iniziativa che ci sarà a Savona a fine luglio al Molo Verde, 3 giorni di iniziative, benefit per Gianluca e Adriano in una di queste sere, ma anche, mi sa, se ho capito bene, anche le cene dei 3 giorni sono tutte a benefit per Gianluca e Adriano. Allora, leggiamo il testo dell'iniziativa: loro, dove loro devastano, noi ricostruiamo. Una 3 giorni dedicata alla condivisione e alla ricostruzione di una baracca in spiaggia. Come ogni anno ci ritroviamo a Molo Verde dopo l'opposizione a progetto ormai quasi estinto di un porticciolo turistico sulla spiaggia della Margonara a Savona. Dopo cimenti invernali, iniziative, concerti, grigliate, musica e condivisione, pensiamo a ricostruire ciò che è stato distrutto negli anni dai soliti speculatori vomitacemento. Proprio su questi scogli sorgevano splendide baracche usate sia dai pescatori della zona che dagli viandanti o senza tetto. Quest'anno ci ritroviamo per una 3 giorni dedicata alla costruzione di una nuova baracca che rimarrà a disposizione di chiunque passi di lì. Un piccolo passo iniziale con l'auspicio che un domani possano sorgere come un tempo altre baracche nell'area. I lavori inizieranno venerdì 25 luglio dalle ore 14 per terminare domenica 27 luglio. La spiaggia è molto grande, vi sarà la possibilità di montare la propria tenda oppure di parcheggiare a poca distanza macchina, camper o furgone. Verrà allestita una cambusa da gestire e utilizzare insieme, pranzi e cene verranno preparati in condivisione, portando ognuno ciò che vorrebbe trovare, ad eccezione della grigliata di sabato per onnivori, vegani e vegetariani, il quale ricavato andrà insieme a quello dell'intera serata a sostegno di Gianluca e Adriano, anarchici arrestati lo scorso 19 settembre e ad oggi ancora detenuti in carcere di regime di alta sorveglianza, accusati di 13 danneggiamenti di varia natura compiuti nei confronti di alcune banche, di una pellicceria, di sedi distaccate di Eni e Enel e della discarica di Roncigliano. Sarà una 3 giorni tutta da scoprire e da inventare. Venerdì 25 ore 14 inizio lavori, le 19 cena bella vita e seguire il DJ set aperto in cui ognuno potrà portare la sua chiavetta e i suoi CD. Sabato 26 caffè alle 9, caffè focaccia a seguire continuazione dei lavori, alle 13 pranzo bella vita a seguire continuazione ancora dei lavori, alle 19 grigliata a sostegno di Gianluca e Adriano, alle 23 concerto con gli altri, l'Eisfa, No Chappi Bourgeois e a seguire DJ set. Domenica 27 invece alle ore 9.30 anche 10, caffè focaccia a seguire continuazione dei lavori, ore 13 pranzo bella vita e a seguire conclusione dei lavori. Sono ben accetti materiali come legno, viti, chiodi eccetera, attrezzi come martelli, avvitatori, sega eccetera. La Margonara è nostra, di tutti i fratelli della costa, pirati ribelli, individui non addomesticati né arresi. Riprendiamoci i nostri orizzonti, subito, siamo tutti margonari. Come raggiungere la spiaggia alla Margonara dalla stazione di Savona autobus 77 o a Varazze e scendere alla prima fermata dopo la galleria tra Savona e Albisola. In macchina uscita autostrada ad Albisola, girare a destra direzione Savona, proseguire sulla Aurelia fino alla galleria. Per ulteriori aggiornamenti, informazioni, proposte di progetti e per la costruzione trovate sotto l'articolo pubblicato su Radiazione la mail dei compagni di Genova che stanno organizzando l'iniziativa. Ora ci ascoltiamo un altro brano di Project Pitchfork con il brano Sand Glass. Effettivamente si va sulla spiaggia, sabbia e vetro, anche se il vetro non verrà usato, penso verrà usato molto legno e poco vetro. Quindi Sand Glass, Project Pitchfork, e dopo si ritorna con la lettura di I Sabotatori di Edward Abbey. Thank you. Hydak getta a terra la lattina cartocciata in un posto dove Bishop Love potrà raccoglierla agevolmente. Allora torniamo sul camion, forza! Non facciamoci prendere dal panico, dice Doc, che ha già cominciato a sudare. Non facciamoci prendere dal panico. Di nuovo tutti a bordo. Smith fa strada con il camion, portandosi in giro Hydak e la Jeep, via dalla pista e su per le rocce tra cespugli di macchia desertica verso la superficie aperta di pietra arenaria. Hydak segue, a fari spenti, avanzando lentamente. Scendono per il declivio verso i golfi neri di spazio oltre il bordo del canyon. Nella fioca luce irradiata dalla luna, distanze e profondità diventano ambigue, ingannevoli, offrendo ombre e oscurità, ma poca copertura, poca sicurezza. Hydak, guardando l'elicottero, pensa: nessuna copertura, siamo di nuovo prigionieri dello spazio aperto. Adesso arriva il napalm. Smith rallenta fino a fermarsi davanti a lui, non volendo agire sul pedale del freno per non emettere un segnale rosso che il nemico coglierebbe con facilità. Hydak tira il freno a mano e lascia che la Jeep vada a urtare leggermente contro il furgone di Smith. Smith scende a esaminare lo scenario circostante, guarda, torna indietro, riprende a guidare. Hydak lo segue da vicino, macinando terreno in prima. Avanzano lentamente alla ricerca di un qualche posto dove nascondersi. L'elicottero Hubschrauber, apparentemente atterrato con le luci spente, non si riesce più a vedere. Bene, pensa Hydak, ci stanno aspettando lassù. Bene, lasciamoli aspettare gli stronzi. E strappa con una mano sola la linguetta di un'altra Schlitz. Quando la Schlitz è finita, è finita. Con una lunga marcia arida davanti bisogna alimentarlo quel vecchio calcolo a rene, non lo si può lasciare sciogliere in una schiuma di sudore e acqua di pozzo, che altro. Impegna la sua mente in un rapido inventario, cosa portare? Pacchi, la 357 Magnum e 20 cartucce nella sua cartucciera, il calibro 30,06 con il dispositivo di individuazione a raggi infrarossi a tracolla sotto lo zaino Kelty, per i cervi naturalmente, anticipando la domanda di Bonnie e le obiezioni di Doc. Poi il coltello Buck Special alla cintura, moschettoni, corda, chiodi e viti da montagna, che altro. Adesso non devo dimenticare niente di importante, adesso il problema è sopravvivere, sopravvivere con fottuto onore, costi quel che costi, che altro. Smith si ferma di nuovo, Hydak aziona ancora il freno a mano urtando il paraurti, scende, lasciando il motore in folle, cammina fino al braccio che sporge dal finestrino della cabina del pick-up sul lato dell'autista. Sei occhi a un sigaro rosso lo fronteggiano dall'interno buio del furgone di Smith. Sì, Smith indica un punto. Laggiù, vecchio tossico. Hydak guarda il punto indicato da Smith. Un'altra gola divide la roccia levigata. Questa profonda 3 o 10 metri, difficile dire alla luce della luna. Terreno sabbioso, una macchia fitte, querce, ginepri, artemisie. Una parete sporgente sull'esterno della curva, un declivio tondeggiante su questo lato. Potrebbe andare, pensa Hydak, potrebbe. Pensi che potremmo nasconderli laggiù? Sì. Pausa. Nel silenzio odono soltanto più silenzio. Le luci sono scomparse. Jeep, blazer, camion, elicotteri. Si sono tutti fermati e tacciano. Questa volta non sarà facile aggirare la squadra. Laggiù, nel buio, in quelle ombre sotto la parete del plateau, i ricercatori e i soccorritori stanno aspettando. O forse no. Forse un'avanguardia è già stata mandata in avant scoperta su per la strada, giù per la strada, a guardare e ad ascoltare. Shhh, taci. Il nemico ti ascolta. È tutto troppo tranquillo, gracchia Bonnie. Sono ancora a meno di un chilometro. dice Aidak. Lo speri? Lo spero. Lo speriamo, dice Doc, gli occhi rossi che mandano riflessi. Ok, dice Aidak, mettiamolo nella gola. Vuoi che ti cali giù con l'argano? No, dice Smith, non possiamo accendere i motori adesso, potrebbero sentirci. Mi aiuterò con il freno. Usa quello a mano, troppo ripido, non è sicuro. Ma così vedranno le luci, osserva Aidak. Spaccale. Fatto. E poi Smith lascia scivolare il suo furgone giù per la sporgenza rocciosa 6 metri fino al fondo sabbioso e lo infila nelle ombre sotto le querce e i ginepri. Aidak lo segue con la jeep. La luce soffusa della luna cade sulla parete superiore, quella morbida curva di pietra macchiata di ossidi di manganese e ferro, ma giù sul fondo, sotto la sporgenza, è tutto buio. Rispiegano la rete mimetica e la stendono sopra gli alberi e la legano, nascondendo il furgone e la jeep all'osservazione aerea. Aidak mette nelle casse le armi che non può portarsi dietro e le nasconde in una grotta nella parete, sopra la linea della piena d'acqua. Inondazioni! La sabbia è polvere secca, il letto roccioso della gola arido come ferro, tuttavia si tratta pur sempre di un canale di drenaggio. Se ci sarà un'inondazione in questo posto sarò ben sfigato, pensa Aidak. Qualcosa perderemo, dice Smith, e mi auguro di avere il tempo di trovare un nascondiglio migliore, sicuro come l'oro che verrà a piovere. Beh, mi sembra abbastanza sereno adesso. Si sta preparando, lo vedi quell'anello intorno alla luna? Domani sera vedrai un'ombra massiccia. E il giorno dopo ancora? Pioverà. Che cos'è? Una previsione del tempo dell'aeronautica militare? Beh, risponde Smith cercando di troncare sul nascere ogni possibile polemica. Come avrai rilevato, anche tu ci sono due cose da cui una persona non può farsi condizionare. Una sono le condizioni del tempo e l'altra. Ma l'altra non serve che te la dica. 3 gridi di civetta da Doc, la vedetta. È evidente che dobbiamo andare, George, dice Smith caricandosi lo zaino in spalla e allacciando la cinghia sui fianchi. Aidak si sistema il fucile lungo la schiena e ci carica sopra il suo zaino. Il fucile, la carabina, è leggero, un modello sportivo montato, ma rappresenta uno scomodo bagaglio incuneato tra le scapole e la struttura dello zaino. Potrebbe anche metterselo a tracolla su una spalla e più tardi lo farà, ma adesso ha bisogno di avere libere entrambe le mani per arrampicarsi su per la formazione di arenaria. Pensa. Pronto in qualche modo, suppongo, se mai un uomo può essere pronto per qualcosa. I rinforzi per la squadra stavano arrivando. 3 altre coppie di fari stavano sopraggiungendo da sud, ambrati nella polvere. Avevano riparato gli pneumatici. Gli altri veicoli restavano silenti, invisibili, insieme ai loro equipaggi. E lo stesso valeva per l'elicottero. Si stanno allargando, direi, commenta Smith. Ci conviene proseguire per questa gola e poi girare a nord in fila indiana, se siete disposti a seguirmi. Tenete i piedi sulla roccia e non lasciate impronte e andremo bene, almeno finché dura questa conformazione del terreno, che non sarà per molto, ovviamente, d'accordo? Mi chiedevo, fa Bonnie, quanto è lontano il MAS? Non lontano. Non tanto. Occhio a figo d'India, tesoro. Quanto? Beh, Bonnie, direi che ci sono 3 chilometri, massimo 5 per arrivare all'incrocio. Vuol dire all'incrocio per il MAZ. Esatto. Bene, e dall'incrocio al MAZ in chilometri? Ci aspetta una bella camminata. Ma è una bella nottata. Beh, quanto? Il MAS, Bonnie, è un'area piuttosto estesa e da quando inizia o quando finisce c'è una bella differenza, senza contare salite e discese. Salite e discese di che? Delle pareti dei canyon, le pinne. Sai che non riesco proprio a capire che cosa stai dicendo. Voglio dire che questa regione è in gran parte sospesa sul filo del rasoio, tesoro. A volte ci puoi stare sopra, ma spesso si impenna o precipita. può rimanere inscatolato oppure circondato piuttosto facilmente, il che significa che in genere il giro largo intorno è la strada più breve e in genere anche l'unica. Ti prego, dimmi quanto è lontano. Cammini per 10 km per farne uno, forse così ti è più chiaro. Quanto? 56 km a Lizard Rock, la rocca delle lucertole, dove troveremo un po' d'acqua. Se ce ne fossero potremmo prendere delle scorciatoie, ma non ce ne sono, nessuna perlomeno che io conosca, ma è una regione complicata e non si sa mai che cosa puoi trovare. E così non ci arriveremo stanotte, non ci proveremo neanche. Haydak, che chiude la fila, si ferma per sfilarsi lo zaino e cambiare posizione al fucile. Nello zaino trasporta cibaria, 6 litri di acqua, munizioni e troppo altro, più il fucile in spalla, la cartucciera carica e la pistola nella fondina, il coltello nel fodero sul fianco. È un arsenale ambulante e fa male, ma lui è troppo ostinato per lasciare altra roba. Avanzano sotto la vaga luce della luna, rimanendo sulla roccia solida, costeggiando il labbro dell'ombrosa gola alla loro destra. Dal loro nemico nessun segno, tuttavia il nemico aspetta da qualche parte, in quelle ombre sotto i dirupi di 400 metri tra i ginepri che respirano quieti. Bonnie ha la testa piena di domande. Chi ha portato lì l'elicottero? La polizia di Stato? L'ufficio dello sceriffo? Il Park Service? O altri membri della squadra di ricerca e soccorso? E se non possiamo arrivare a Mas entro la notte, che cosa faremo quando sorgerà il sole? Sono anche affamata e presto mi verrà mal di piedi. E chi ha messo la ghisa nel mio zaino? Ho fame, dice. Smith si ferma, facendola tacere, e sussurra. Gli altri tipi devono essere qui intorno, Bonnie, ci stiamo avvicinando, aspetta un attimo. Molla giù il suo zaino e scivola via come un fantasma, un'ombra, un paiute. Attraverso il mare mosso di dune pietrificate verso la strada, Bonnie osserva la sua figura ossuta recedere nella luce della luna, dissolversi nella sua ombra e ritirarsi gradualmente. Adesso lo vedi, ora non lo vedi. Seldon Sim, visto di rado, diventa Never Seen, mai visto. Bonnie e gli altri si sfilano gli zaini. Lei apre la cerniera di una tasca laterale e tira fuori un sacchetto baggy pieno di una sua mistura personale a base di uva passa, nocciole, toffolette, semi di girasole. Doc rumina un bastoncino di carne secca. Haydak rimane dove si trova e aspetta. Coprendo le spalle a Smith, si sfila il fucile appoggiando il calcio sullo stivale. Perché la pistola? Sussurra Bonnie. Questo, Haydak la fissa, questo non è una pistola, questo è un fucile, e sorride. La mia pistola è questa. Non essere volgare, e allora non fare domande cretine. E perché hai portato quell'arma? Doc, il moderatore, interviene. Calma, calma, su, smettetela. Per un minuto giù di lì restano in silenzio, in ascolto. Fuori dal deserto, una distanza indefinibile, una civetta chiama, un grido, la grande civetta cornuta. Sentono un secondo grido. Due gridi, dice Bonnie. Che significa? Non l'ho scordato. Aspetta. Di nuovo da lontano, o non così lontano, ma da una direzione opposta, giunge il suono di un'altra grande civetta che urla gentilmente alla luce della luna e alla notte. La seconda civetta urla 3 volte. Significa pericolo. In guardia, significa tensione, problemi, ho bisogno di aiuti. O significa nel linguaggio della civetta: ehi tu, piccolo coniglietto che ti nascondi sotto quel cespuglio, so che sei lì, tu sai che sono qui e tutti e due sappiamo che sei nelle mie mani, vieni, vieni, vieni. Qual è il richiamo vero? Qual è la civetta è falsa? Nessuna, entrambe, è un'eventualità di cui non hanno tenuto conto. Un sussurro di passi leggeri sulla roccia. Seldon Sim emerge dalla luce della luna. Gli occhi che brillano insieme a denti, orecchie, pelli e capelli, il respiro un po' più pesante del consueto, dice tranquillamente: andiamo. Let's go. borbottando e gracchiando, si rimettono in spalla gli zaini. «Cosa hai visto?» dice Aidak. «Quelli della ricerca e soccorso sono dappertutto e non stanno aspettando che sorga il sole per darci la caccia. Ne ho visti 6 sulla strada e non so quanti altri ancora ce ne sono in quel benedetto infernale elicottero. Tutti quelli che ho visto hanno un fucile o una carabina e si portano dietro quei walkie-talkie e avanzano a ranghi allargati in formazione di guerriglia, come se stessero battendo la macchia in cerca di conigli.» «Beh, i conigli siamo noi.» «Siamo noi. E non possiamo tornare sulla strada e dunque dobbiamo trovare un passaggio in questa gola. Seguitemi.» Smith torna indietro per poco. Lungo il percorso da cui sono arrivati trova una discesa nella gola e scompare. Gli altri, con Aidak sempre a chiudere la fila, si affrettano a seguirlo cercando appigli con le mani e raggiungono Smith in un deposito sabbioso dove lascia impronte dappertutto. Non c'è modo di evitarlo. Le pareti sono quasi a perpendicolo su entrambi i lati, alte tra i 6 e i 10 metri. Tutti annaspano in mezzo alle ombre, seguendo ciecamente la loro guida. Dopo un po', Smith trova un'apertura nella parete e un canale tributario. Lo risalgono camminando sulla sabbia asciutta e nel giro di qualche centinaio di metri raggiungono un'uscita, una cupola scoscesa di pietra sull'interno di una curva. Ci si arrampicano come scimmie sulle punte delle mani e dei piedi. Doc, un po' ansimando, ritrovano la luce della luna e il terreno aperto. Smith parte a nord-ovest verso una linea d'orizzonte nitida e definita di cocuzzoli e pinnacoli. Cammina come un indiano dei vecchi tempi prima della guerra e dei pick-up, a grandi passi, quasi a balzi, i piedi puntati in avanti, perfettamente paralleli. Gli altri si affrettano per stargli dietro. Quanti piccoli canyon ancora come questo, bofonchia Bonnie. Da qui a, voglio dire, ma dove stiamo andando? 100, forse 200, risparmia il fiato, tesoro. La lunga marcia è cominciata. Ogni 100 passi udito lì Smith si ferma a guardare, ascoltare, controlla le correnti d'aria, sente le vibrazioni. Alla fine della fila, con il proprio ritmo, Aidak alterna le veglie di Smith con le proprie, fermandosi mentre gli altri marciano per dare un'occhiata supplementare. Sta pensando a quell'elicottero, che bel colpo sarebbe se solo potesse allontanarsi per una mezz'oretta. Aidak si attarda, fermandosi per svuotare un rene. Assorto, compiaciuto, contempla con piacere il tambureggiamento costante sulla pietra. Schlitz purificata, illuminata dalla luna. Grazie a Dio sono un uomo, Dio cane. La roccia è piatta. Gli schizzi colpiscono i suoi scarponi. Lo sta scrollando il membro, cercando di liberare quell'ultima goccia che invariabilmente finisce per scorrergli sulla gamba. Ormai in procinto di rimetterlo a posto e chiudere la lampo quando sente un suono sconosciuto, alieno alla pace del deserto, uno scatto metallico e poi un frastuono. E questi erano Monolith con il brano Ghost. Ora si ripassa alla controinformazione con un testo che arriva dal Cile dopo un attacchinaggio. È stata chiamata azione. Io ho scritto attacchinaggio perché è un attacchinaggio, non è un'azione. Un testo che ho scelto di pubblicare perché tratta di un argomento che dovrebbe interessare ad ogni individualità anarchica. Dell'argomento trattato nel testo si parla di fattacci accaduti lo scorso anno in Bolivia, di cui già se ne è parlato su Radiazione, ma quello è solo un pezzo del puzzle della delazione e dell'infamia che molto spesso vengono nascoste dal movimento anarchico e libertario in tutto il mondo. Io l'ho sempre definita difesa per fratellanza cristiana, niente di diverso dal perdono cattolico, laddove esistesse anche questo perdono tra i cattolici. Si nascondono le verità e si spargono palate di merda contro altri compagni giusto perché la si pensa diversamente o perché dare dell'infame ad un compagno che non è, lo è mai stato, vuol dire non avere gli argomenti per confrontarsi. Ora leggiamo il testo. In questa notte fredda e piovosa abbiamo deciso di rompere la monotonia cittadina, abbiamo deciso di uscire e condividere in lontananza il colore e il calore che esce dal nostro cuore nero e ci unisce. Ogni compagno caduto, ingabbiato, torturato non è mai dimenticato e con grandi gesti o piccoli come questi rompiamo queste barriere e ci dissolviamo in lontananza come le stelle nascoste sotto dense nubi di una notte fredda, rendendoci invisibili agli occhi passivi dei cittadini, ma che sono sempre presenti in ognuno di noi, indomiti e selvaggi con cuore libero. Ogni gesto sincero di rompere l'isolamento è anche un colpo contro quelli che vogliono rovesciare i nostri sogni, quindi vogliamo cogliere l'occasione per dare un caloroso abbraccio enorme e stimolante alla compagna Tamara Sol Vergara per la tua forza e la tua convinzione da guerriera, così come la sua famiglia che di recente è stata vittima di molestie e abusi da parte di schifosi carcerieri. Il compagno Gabriel Pompo da Silva, che recentemente è stato messo in isolamento e che rimane saldamente degno dopo tanti anni. Vogliamo dare anche il nostro incoraggiamento ai compagni brasiliani, a voi che state resistendo giorno dopo giorno e non avete mai taciuto durante la Coppa del Mondo e che resistete alla grande repressione, sgomberi e omicidi commessi dalle forze repressive dello Stato. Ancora una volta si tenta di nascondere la criminalizzazione con il circo del calcio, provando con la competizione a distogliere l'attenzione dai veri problemi che dobbiamo affrontare giorno per giorno in diverse zone del territorio. Ai coraggiosi guerrieri indigeni e non indigeni che si scontrano faccia a faccia con il potere va il nostro incoraggiamento e lo sguardo complice. Ricordiamo anche i 2 anni dalla persecuzione del movimento libertario anarchico nello stato boliviano e 2 anni non restano isolati e innegabilmente per fare un riesame dei fatti e degli atteggiamenti di molti in quel posto. In questi 2 anni abbiamo visto diversi atteggiamenti che sono stati adottati e per questo abbiamo continuato a rafforzare la nostra lotta. Penso che non sia sbagliato ricordare gli atteggiamenti vigliacchi di molti personaggi di quella regione, si parla della Bolivia, che possono essere rilette nelle dichiarazioni degli stessi e che ora vi elenchiamo. I piattaformisti di OARS e Red Verde, in particolare Renato Vincetti, Victor Ruga Ghironda, accusati e arrestati il 29 maggio e che rapidamente hanno deciso di collaborare con le forze repressive fornendo nomi, indirizzi e di più. Chiariamo anche che queste 2 persone sono stati i primi ad avere gli arresti domiciliari, se si può chiamare così, e poi la libertà, senza avere alcuna essere sottoposti ad alcuna udienza. Jennifer Vincetti, Omar Luna, anche loro membri di OARS e il movimento Skinhead, con tutti quelli di questo gruppo che successivamente hanno rilasciato altri dati alla polizia e ad adempiere lo stesso ruolo. Nila Mansiglia, accusata e imprigionata il 29 maggio, sebbene inizialmente era rimasta forte e ferma, non ha esitato a far arrestare altri compagni, fornendo indirizzi, nomi, dati e avviando una persecuzione contro i compagni in fuga. Virginia Ailon, Paola Stensoro, persone facenti parte del movimento anarchico libertario boliviano da anni, non hanno esitato a far partire una caccia alle streghe contro tutti quelli che loro considerano colpevoli con altri nomi di persone vicine a loro, spesso utilizzando anche la rete sociale per la loro caccia. Miyoshiro Meron, detto anche Crudo, il punk che abbiamo già parlato un po' di tempo fa, accusato e arrestato il 29 maggio, inizialmente resistente prima di passare a commettere una serie di gravi errori che per noi furono sufficienti per non dargli solidarietà. E rileggendo il suo comunicato, continuiamo a pensarla allo stesso modo e crediamo che non dando importanza a queste cose significa lasciare che l'infamia si perpetui nel futuro. Sappiamo che la situazione nel carcere per i compagni è difficile, ma dobbiamo dimostrare la nostra sincerità e supporto sincero e concreto. Noi crediamo che Myron sarebbe stato onesto dall'inizio, se fosse stato onesto dall'inizio le cose sarebbero andate diversamente. Invitiamo ad una lettura dei suoi comunicati in ordine cronologico per una migliore comprensione e critica. Così abbiamo deciso di condividere queste parole nate dai nostri cuori e dai nostri limiti e perché no, crediamo sia necessario fare una chiamata di solidarietà con i nostri prigionieri in guerra in tutto il mondo e anche fare un invito alla critica e all'autocritica di atteggiamenti che non possono essere ripetuti e per cui dobbiamo prepararci a non commettere gli stessi errori e non cadere come loro. L'inganno, l'infamia e la diffamazione non possono avere spazio nei nostri ambienti e devono stare lontani dalle nostre individualità autonome. E per questo è necessario attaccarli, discuterli, buttarli fuori ed eliminarli, in modo che non si ripetano. Ignorare tali atteggiamenti vuol dire sostenerli. Vogliamo strizzare l'occhio complice e dare il nostro abbraccio anarchico, libero e selvaggio al compagno Henry Zegarrundo, guerriero che rimane dignitoso e fermo in tutto questo tempo. Tutto questo periodo vediamo le continue sospensioni delle udienze che vengono fatte in modo ridicolo dallo Stato boliviano. Speriamo presto di poterti stringere le nostre mani. Forza compagno, il nostro più immenso affetto e abbraccio anche ai compagni inflessibili e guerrieri, Hans Niemeyer, Ilya Romanov, Monica e Rodrigo, che è il secondo nome di Francisco Solar, Marco Kamenich, Afonso Vial, MS Gonzalez, Juan Alista Vega, Freddy e Marcello e a tutti i prigionieri clandestini che combattono in tutto il mondo. Ognuno di voi siete parte di ogni passo rivoltoso che facciamo, ogni sorriso complice che facciamo, in ogni attacco che facciamo, come loro, Maurizio Morales e Sebastian Oveslucci, per la libertà dei nostri compagni in guerra contro l'infamia, solidarietà e anarchica, l'ultima notte di giugno 2014, cellula individualista della notte. E questo era il testo che arriva dal Cile per quanto riguarda un tema che come introduzione ho detto riguarda tutto il mondo, ha riguardato anche l'Italia. Si è chiuso l'occhio, anzi se ne sono chiusi due in passato su certi avvenimenti quando è accaduto che gente ha confidato, ha parlato, ha detto delle cose davanti ai giudici, davanti alla polizia, portando alla criminalizzazione di altri compagni o addirittura all'arresto. Quindi se si è deciso di pubblicare questo comunicato è anche per fare una critica e un'autocritica, come dicono i compagni in Cile. Ora ci ascoltiamo un brano, loro sono non mi ricordo come si, comunque il brano è Fuck Icon Movement, Analogic Guerrilla. We'll be right back. Un potente raggio di luce spazza la roccia. Da un riflettore montato su un elicottero? Chissà, ma impala Smith e Abzug sul suo fascio, loro rimangono gelati per un istante, infilzati dalla lancia bianca, poi si lanciano a perdifiato tra i ginepri. Il raggio li segue, li insegue, li perde, cogliendo Doc Service attardato più indietro. Aidak estrae la pistola, si inginocchia, stabilizza la mano che impugna la pistola con la sinistra e mira alla luce girevole, spara! Il colpo della bocca distruttiva lo stordisce per un attimo, come sempre, naturalmente manca anche il bersaglio, la luce incorporea. Come un grande occhio lampeggiante rivolge la sua attenzione ad Aidak. Lui spara e manca il bersaglio una seconda volta. Dovrebbe prendere il fucile, ma non c'è il tempo. Sta per fare fuoco una terza volta quando la luce si allontana. Chiunque la stia guidando è improvvisamente reso conto di essere troppo vicino al bersaglio, di essere diventato a sua volta lui stesso il bersaglio. Aidak corre impacciato dietro gli altri, l'enorme zaino cavalca sulla sua schiena, alle sue spalle giunge il suono di piedi impegnati nella corsa, grida, uno spasmo di sparatoria simbolica. Aidak si ferma abbastanza a lungo per sparare altri tre colpi, senza un obiettivo particolare, perché nel chiarore vago e rischioso della luna non c'è niente di particolare che può vedere e colpire. E anche se ci fosse, non potrebbe certo beccarlo con quel cannone che gli trema nella mano, ma... Il rumore rallenta gli inseguitori, li rende più prudenti. Le urla si spengono, la squadra è impegnata con le ricetrasmittenti, trasmissioni confuse ingolfano le onde radio, le voci eccitate si sovrappongono. Correndo, con lo scomodo fardello sulla schiena, Aidak raggiunge Doc, che sbuffa sul sentiero come un vaporetto molto attardato rispetto a Smith ed Abzug, figure oscure che trotterellano sulla salita più in avanti. Aidak si accorge che hanno mollato i loro grandi zaini alle sue spalle. Riprendono le urla, ordini, istruzioni, il battito sordo di scarponi in corsa, ansia che monta. Il riflettore comincia a muoversi, due riflettori. Dobbiamo mollare gli zaini. Dio sì, non qua, aspetta. Raggiungono l'orlo di un altro canyon incipiente, una tipica fessura nella roccia levicata della regione, con pareti a strapiombo e fondo inaccessibile. Una frattura troppo larga per saltarla, troppo profonda e troppo ripida per discenderla. Qui, dice Aidak fermandosi. Doc si ferma al suo fianco sbuffando come un cavallo. Li molleremo lì, dice Aidak, sotto la parete, e torneremo più tardi a prenderli. Si sfila lo zaino, tira via una corda arrotolata, poi affonda la mano nella tasca alla ricerca della sua scatola di munizioni per il fucile. Non riesce a trovarla subito, schiacciata com'è sotto 30 kg di altra attrezzatura. I rumori degli inseguitori si fanno più prossimi, di nuovo i pesanti scarponi da corsa, troppo vicini. Aidak cala lentamente lo zaino al di là del bordo e poi lo lascia andare. Precipita per 4 metri su qualcosa di duro. Tromp! Il Kelty nuovo di zecca. Attaccamento alla proprietà. Sì! Si mette a tracolla il rotolo di corda. Prende in mano il fucile. Spicciati, Doc! Il dottor Service sta lottando con qualcosa dentro il suo zaino per cercare di recuperare una borsa di pelle nera sistemata perfettamente al centro del carico. Andiamo, andiamo! Che Cristo stai facendo? Un secondo, George. Devo tirare fuori la mia... Devo avere la mia borsa, mollala! La mia borsa medica! Per l'amor del cielo, non ne abbiamo bisogno, andiamo, solo un secondo! Doc riesce finalmente a tirare fuori la sua borsa e sistema il resto del bagaglio al di là del bordo. Sono pronto! Aidak lancia un'occhiata indietro, le ombre giocano sulla roccia, spostandosi veloci tra i ginepri, avvicinandosi rapidamente. Quanto lontane? 100, 200, 500 metri. Nella folle luce della luna è difficile calcolarlo. Il raggio di un riflettore trasportato a mano tremola alla ricerca della preda. Corri là, Doc! Si lanciano con passo pesante sulla terrazza pietrosa dove avevano intravisto per l'ultima volta Bonnie e Smith, e li trovano in attesa sul lato opposto. Il loro bagaglio si è ridotto da alcune borracce. Sono dietro di noi, dice Aidak a fatica superandoli. Non fermatevi. Tutti lo seguono senza proferire una parola. Smith, accelera un po' per raggiungere Aidak. George dice: usiamo quella corda prima che ci circondino. Giusto. Doc ha perso di nuovo terreno. Respira affannosamente la borsa. Gli sbatte contro il ginocchio ad ogni passo. Bonnie gliela prende di mano e la porta a lei. Corrono lungo il bordo del piccolo canyon. Aidak cerca un albero, un arbusto, un masso, una roccia sporgente, una proiezione qualsiasi intorno a cui doppiare la corda. È di nuovo tempo di rappel, ma non c'è niente di utilizzabile in vista. E quanto bisogna scendere? 3, 10, 30 metri? Aidak si ferma in un punto in cui la parete sottostante non è in aggetto né in verticale, ma si gonfia all'esterno creando una pendenza leggera verso il fondo. Ottimo, per una discesa a corda doppia. Da un'occhiata in basso, il fondo non riesce a vederlo. Buio e silenzio laggiù. Le sagome appena percettibili di cespugli e ginepri ancora. Qui! Srotola la corda e scuote. E mentre Doc e Bonnie si avvicinano, ansimando disperatamente, le facce paonazze e lucide di sudore, li accoglie entrambi in un grande abbraccio senza una parola. Lega con un'estremità della corda disegnando un nodo a 8 fisso, un nodo di bitta. E ora che succede? Chiede Bonnie. Ah, che succede? Ci caliamo nel canyon, tu e Doc per primi. Bonnie guarda oltre il bordo. Tu sei pazzo. Non ti preoccupare, ti terremo noi, non avrai nessun problema. Seldon, dammi una mano qui, ok? Vai, supera il bordo, ci ammazzeremo. No, non si ammazzerà nessuno, vi teniamo noi. Superate il bordo, Dio cane, giratevi, giratevi, dannazione, tutti e due. Tenete i piedi piatti contro la roccia, ok? Ok, così va meglio. Adesso scendete camminando, la schiena è fuori. Non cercate di aiutarvi con le mani, non serve a niente, non tenete la corda così forte, è inutile, mollala, la schiena in fuori la schiena, Cristo Santo, oppure vi ucciderò io stesso. I piedi piatti contro la roccia. La corda usatela solo per bilanciarvi, come se camminaste, no? In perpendicolare, facile, no? Così via, così è meglio, continuate, santo cielo benedetto, ok, bene. Dove siete? Siete arrivati? Borbottio ovattati dalle ombre sotto, rumore di cespugli spezzati, il fruscio di piedi ingarbugliati. Aidak guarda in giù nell'oscurità. Bonnie, sciogli il nodo, molla la corda, spicciati! La corda si allenta, la tira su, ok. Seldon, tocca a te. E tu come scenderai, George? Chi ti terrà? Scenderò, non ti preoccupare. Come? Smith fa passare la corda tutta tra le gambe attorno a un fianco e sopra la spalla opposta, preparandosi alla discesa. Vedrai, vedrai. Aidak si sfila il fucile. Porta giù questo per me. Aspetta un minuto. Guarda indietro il percorso che hanno fatto cercando di vedere gli inseguitori. La luna pallida si distende debole sulla roccia e la sabbia, su ginepri, yucca e coleoptine. E sui dirupi più in là un'illuminazione sfuggente e ingannevole. Può sentire le voci degli uomini e lo sbattere dei grandi piedi sulla roccia. Li vedi, Seldon? Smith sta forzando lo sguardo nella medesima direzione, riparando gli occhi dalla luce della luna. Ne vedo due, George. Altri tre più indietro. Dovrei sparare di un altro colpo per farli rallentare ancora un po'. Non farlo, George. Sono cristiano e quindi li trasformo tutti in santi. Faccio provare anche a loro un po' della paura di Rudolf Aidak. Un colpo di fucile dovrebbe farli fermare e riflettere. Dammi il fucile, George. Gli sparerò sopra la testa. Forse sarebbe più sicuro se mirassi direttamente a loro. Quegli struzzi ci hanno sparato. Hanno sparato per uccidere, meno male. Smith riesce a prendere con gentilezza il fucile dalle mani di Aidak che se lo mette sulla spalla libera. Tienimi, George. Arretra fino al bordo. È una prova, George. Aidak prende la corda lenta, punta i piedi, la corda intorno ai fianchi. Ok, reggimi. Smith supera il bordo e scompare. Aidak tiene agevolmente la corda tra le mani mentre Smith scende rapidamente il piano verticale. Il peso di Smith trasmesso dalla corda è sostenuto dal bacino e dalle gambe di Aidak. In quel momento sente la corda allentarsi, la voce di Smith si innalza nell'oscurità sottostante. Ok, George, puoi riprenderla! Haydak guarda indietro, il nemico è sempre più vicino. E adesso il riflettore è acceso e il raggio abbagliante lo colpisce direttamente. Di colpo, sfortuna nera, non c'è più possibilità di fuga. Nessun posto dove andare. Nient'altro che l'aria per cominciare la sua discesa a corda doppia. Quanto è alto il salto? Gracchia Haydak. Direi una decina di metri, replica Smith. Haydak molla la corda, ormai inutile per lui, che cade nel canyon. Il raggio di luce passa sopra di lui e va oltre. Una reazione ritardata da parte dell'occhio del ciclope, il raggio torna indietro di scatto e si ferma, fisso sulla figura covacciata di Haydak, gli brucia gli occhi, lo acceca. Fermo! Ringhia qualcuno, una voce vagamente familiare e maestosamente amplificata dal megafono. Resta lì dove sei, non ti muovere, figliolo! Haydak si stende sulla pancia a filo del salto. La luce resta su di lui, qualcosa di crudele, silenzioso, rapido come un pensiero, penetrante come un ago, astuto come un serpente. Frusta la manica della sua camicia, pungendo la carne sotto. Lui tira fuori la sua pistola, la luce scompare. Nello stesso istante sente il rumore secco di un secondo colpo di fucile. A est le prime luci dell'alba. Si rivolge agli altri giù. «C'è un ginepro sotto di me?» La luce torna schiacciandolo a terra. «Sì!» La voce calda e amica di Smith. «Ma non proverei se non...» Le sue parole svanirono nel dubbio. Haydak rimette la pistola nella fondina e scivola sullo stomaco oltre il bordo, la faccia contro la parete, sentendo il freddo rigido rigonfiamento della pietra contro il torace e le cosce. Resta appeso per un istante all'ultimo possibile appiglio. Discesa in attrito, pensa. Quella che chiamano una discesa in attrito del cazzo. Guarda sotto, vede solo ombre, niente fondo. Ho cambiato idea, dice disperatamente, impercettibilmente, perdendo la presa, non parlando a nessuno in particolare. E chi? Chi sta ascoltando? Non voglio farlo, è una follia, ma... Ma le sue mani sudate sanno che è tardi e lo abbandonano. Precipito, urla, precipito, pensa di urlare, ma le parole non gli escono dalle labbra. Odia la scuola, odia la professora, le regole la suora. E non ci vuole credere, non ci vuole credere, non ci vuole credere all'asino che vola, non ci vuole credere all'asino che vola, non ci vuole credere all'asino che vola, non ci vuole credere mo. Ma ben a raggio, ma ben a raggio, si sulla pensa a tutta era maggio, che chi stanno fatta, a tutta gente morta, a tutta nostra rotta, mannaggia chi è morto. Ma ben a raggio, ma ben a raggio, si sulla pensa a tutta era maggio, che chi stanno fatta, a tutta gente morta, a tutta nostra rotta, mannaggia chi è morto. Condano, condano, condano, condano, condano, condano, condano, condano, condano, pizzi, pizzi, pizzi, pizzi, pizzi, pizzi, pizzi, pizzi, pizzi, condano, condano, condano, condano, condano, condano, condano, condano, comizi, pizzi, pizzi, pizzi, pizzi, pizzi, pizzi, pizzi. Mai guardato al cielo in cerca di aiuto, guardo dritto a terra e al massimo ci sputo. Butto giù la rabbia, la mastico di gusto, la tengo da parte per il momento giusto. Perché adagiarsi, posarsi, idoli falsi, fermarsi a guardare attorno e accontentarsi dello status quo di un politico che mai conoscerò, di un sindaco scaltro come l'altro, ennesimo politico bastardo, ennesimo politico bastardo. Rimambiti dalla crisi del 2012, cavalchiamo tempi quanto meno illogici. Come la risolviamo la crisi? Affidandoci a futuri sorrisi, tipo saranno famosi grandi fratelli, sorelle, lontane oasi, lontane oasi. Ed ora chiudiamo la diretta con l'ultima parte per oggi di Nazero 13. È strano quando stia accadendo. Quelli che una volta i refractarios definivano zombie o pecore, da un momento all'altro sono scesi determinati per strada e sono pronti a mettere a ferro e fuoco la metropoli. I refractarios invece ora sono lontani dalla rivolta perché sul Vesuvio hanno costruito una vera e propria base isolata e mimetizzata. Pachelen, che è sdraiata per ad ascoltare un po' di musica nel furgone, ogni tanto accende la radio per vedere se riesce a beccare una frequenza funzionante di qualche radio cittadina. I ripetitori dopo l'esplosione hanno subito danni dalla nuvola tossica che ha corroso i cavi, quindi è difficile riuscire a trovare una stazione radio funzionante. La bambina di fuoco, Ashlen, sta ascoltando un CD di tango argentino mentre con gli occhi chiusi, mentre pensa alla sua terra natia. Pensa a sua nonna, oramai molto anziana, e vorrebbe tanto riabbracciarla. Pensa all'attacco di un paio di notti prima alla fortezza delle forze speciali dei Tarspok con la dinamite, e con un sorriso accennato e le lacrime che fuoriescono dalle ciglia degli occhi chiusi, pensa ai suoi genitori di cui ha solo pochissimi piccolissimi ricordi, dato che anche lei era piccolissima all'epoca. Si asciuga le lacrime, ma tenendo sempre gli occhi socchiusi, allunga il braccio verso lo stereo del furgone e toglie il CD. Questa operazione attiva automaticamente il passaggio di source. Si accende la radio. Quello che sta accadendo nel centro di Nazero 13 ha dell'incredibile. I refrattari hanno attaccato le forze speciali con la dinamite. Carcellia è stata violentata da poco più di 50 detenuti che sono evasi non prima di fare una strage di Tarspok e decapitando il direttore dello stesso carcere fognario. L'esplosione del termovalorizzatore ha scatenato un effetto a catena. Cannibali, persone non morte ma che sono rimaste vittime intossicate dalla nuvola viola e che si sono trasformati in una sorta di zombie coscienti, hanno fatto strage di Tarspok e dei nostri colleghi Mediacops nell'area nord. Dall'ospedale in centro storico è partita una vera e propria rivolta formata da cannibali e cittadini. Tutti insieme stanno mettendo Nazero 13 a fuoco e molte autorità sono state scaraventate dalle finestre dei palazzi istituzionali. Per i primi secondi Ashlen non fa caso alla voce dei Mediacops che racconta quanto sta accadendo in città. Poi di scatto si alza dal sedile, alza il volume per sentire meglio. Intanto anche altri refractarios hanno sentito e sono accorsi al furgone. Arnie sposta Tina per un braccio dalla portiera e riferendosi ad Ashlen. Ashlen, che cazzo succede? Prima che continui a rivolgersi alla ragazza, gli altri refractarios guardano insospettito Arnie e la stessa argentina. Ashlen, risponde Tina con un modo sospettoso, ma viene subito zittita da Aki che le dice che è il vero nome della ragazza. Si scrive Ayelen però. Arnie è un vero precisino e non perde l'occasione per puntualizzare. Sì, grazie Arnie, sembra più importante per ora la radio, risponde Mark tra lo stizzito per la precisione di Arnie e l'ironia per prendere in giro il suo compagno. Infatti è più importante capire cosa succede e dopo parleremo, o meglio Ashlen vi spiegherà tutto. Annie riprende a fare domande alla ragazza. Ashlen, allora, è realtà o un racconto di fantascienza letto in radio quello che abbiamo appena ascoltato? Il todo autentico. Era il TG Radio Nazionale e quello che parlava era un Mediacorp. Carcella in rivolta, evasioni, cannibali in rivolti, tutto vero, Annie. Ashlen salta giù dal furgone ed abbraccia Annie che, come tutti gli altri Refractarios, è impietrito, quasi allucinato da quanto hanno appena appreso. Valerie, tocca andare a cercare immediatamente Valerie. Mark spera che anche il loro compagno sia riuscito ad evadere ed invita tutti gli altri a muoversi per andare a cercarlo e metterlo al riparo. Sì, Valerie, ma scendiamo tutti e andiamo a vedere cosa sta accadendo in città. Annie risponde alla proposta di Mark e poi aggiunge: ognuno in coppia, camuffati, armati, e ci dividiamo in zone per poi darci appuntamento da qualche parte. I Refractarios si organizzano per scendere da Vesuvio in direzione NA013. Mancano solo loro all'appello ed i grattacapi per Navig e tutte le autorità Tarsprock e governative sono solo all'inizio. Radio Azione. Radio Azione. Contro informazione, letture, provocazioni, musica. Attenzione, punto, informazione, letture, provocazioni, musica. Radio Azione. Radio Azione. Controinformazione, letture, provocazioni, musica. Radioazione.org. Radioazione. Radioazione. Radioazione. Punto.